eccoci qua. Ullala! Dio boh! Mi vedo costretto dalla circostanza, o meglio dalla oval stanza, a sferrarti un lordone, a calorda di dimensioni fuori dal comune. Serve quasi il passaporto, che quasi sicuro fa gol. Te lo dico con la mia coscienza, non con quella di Zeno. Se no sai che putiferio, gusto vimini, cancamini, cancamini, ballano il cancan mentre mimano. Baila morena, ma non sbottare sulla SS, H strada statale, che picchi cosiddetti diversi. C'è qualcosa che non quadra, che sbullone i cardini del joypad. Scarico una ROM e subito mi dai del maschilista, ignorando che le ROM sono sia gitane che tecnologie avanzate, talmente avanzate che non le vorrebbero neanche al terzo mondo, H pianeta degli snack.